Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Dieci, otto minuti, buona domenica, da Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero. Cerchiamo davvero oggi di scoprire cosa c'è in noi italiani. Siamo bravissimi a fare tante cose, peccato che non sempre questo si riesce a sapere per un motivo o per l'altro. Chissà, forse anche dei media che non ne parlano abbastanza, che fanno di magari persone che hanno poco da dire i personaggi, appunto riescono a trasformare persone che hanno poco da dire in personaggi, invece altri che hanno davvero talenti non riescono a emergere, a farsi sentire, perché non hanno gli spazi adeguati. Cerchiamo di capire un po' questo meccanismo, di chi è la colpa, se ce n'è una. Magari non è colpa di nessuno, però sarà carino capire come funzionano le cose. E voglio anche cercare di farvi avere 1000 euro, come sempre con il mistero in 24 minuti alle 11.30, infatti il nostro gioco che vi vede coinvolti, la possibilità di portare a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, ammesso che riusciate a risolvere il mistero, che può essere qualcosa di molto conosciuto, oppure un personaggio famoso o una notizia della settimana. Il numero verde per prenotarvi anche subito 800 24 00 24. E torniamo a parlare della puntata di oggi. Vi ricordo anche la nostra pagina su Facebook. Non lo faccio mai, invece dovrei, perché ho notato che ultimamente vi sbizzarrite a scrivere messaggi anche lì, e quindi fatelo, cercatela, Il riposo del guerriero, ovviamente questo è il nome, lo trovate appunto nella pagina di Facebook. E poi il numero per gli SMS 349 238 6666. Oggi parliamo quindi anche di talent show, di persone che si sono esibite, alcune che sono state scartate ma che stanno avendo grande successo malgrado questo, e magari avete avuto anche voi un'esperienza di questo genere, quindi fatecelo sapere. I numeri per i vostri messaggi, anzi il numero 349 238 6666. E siccome nella vita tutti abbiamo giudicato almeno una volta, ma siamo anche stati giudicati, cominciamo così. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa, e sai perché? Sta di casa qui la felicità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno. Devo dire che aveva un tiro sto pezzo straordinario, veramente. Non so se erano gli urlatori già oppure poco dopo, ma no, siamo in quel periodo lì sicuramente. Vabbè, insomma, tutti l'avete riconosciuta, Caterina Caselli, anche se la canzone ormai ha più di 40 anni, credo una cinquantina ormai. La forza è sempre lì nel tiro. Io ovviamente direi di intitolare un programma così: Nessuno mi può giudicare, nuovo talent show. Paolo Mosca, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Come ti sembra come titolo? Bene. Ma bello, bello. Nessuno mi può giudicare, ecco. Sì, sì, è molto nel tema di quello che stai facendo. Esatto, in effetti è così. Allora, Paolo Mosca, autore TV, ha scritto anche un libro che si intitola Reality, dal Grande Fratello all'Isola dei Famosi, edito da Bompiani, anche se oggi non parliamo di reality, perché si vuole puntare proprio sul talento. Allora, io volevo cominciare da te, perché da autore hai avuto un occhio diverso rispetto a tante cose. La prima, per esempio, è cosa si sceglie quando si fa questa domanda te l'abbiamo già fatta tante volte, però è giusto anche ribadire: che cosa si sceglie quando si deve mettere in piedi un talent show in televisione? Allora, il talent rispetto a un reality ha sicuramente da parte sua un vantaggio, nel senso che c'è una base da cui partire, no? Se tu devi fare un reality, diciamo così che la tavolozza dei colori è amplissima, vai dal bianco al nero e con tutte le gradazioni in mezzo. Il talent già fa una sua selezione, solo per il fatto che devi scegliere per esempio dei ballerini piuttosto che dei cantanti, la capacità di ballare o di cantare ti porta già a un livello tecnico a selezionare. Dopo la capacità tecnica, chiaramente cerchi di trovare una personalità, quindi di associare a ciò che una persona sa fare, e possibilmente sa fare bene, una, diciamo così, un modo di porsi davanti alle telecamere che non sia scontato. Ecco, adesso intanto hai detto già una cosa interessante, fare bene, perché forse una chiave è anche quella, no? Quanto bene, punto di domanda. Te lo chiedo tra poco, gli aggiornamenti sul traffico, continuiamo a parlare con te. Il riposo del guerriero. Allora, Paolo Mosca, autore televisivo, stiamo parlando di talent show e della differenza ovviamente con i reality, però oggi puntiamo i riflettori sui talent. Dicevamo, allora, innanzitutto la capacità di fare qualcosa, ipotizziamo cantare. Ecco, tu dicevi farla bene sempre o anche mediamente bene, perché se c'è una personalità forte è meglio far emergere quella? Ma guarda, allora, i talent che si fanno sono tantissimi, su tanti canali diversi, quindi con tante prerogative diverse. Chiaramente se fai una cosa per un canale che guarda lo share, è normale che magari punti non solo alla bravura tecnica, ma punti anche a una certa capacità di bucare lo schermo. Quindi puoi anche, laddove serve, diciamo così, andare al di là della tecnicità per cercare una persona un pochino più divertente da vedere, un pochino più simpatica. Anche perché se in un cast tu metti dentro solo persone bravissime, ti fa anche un po' due palle da un punto di vista narrativo. Esatto, certo. Dici, bravissima a cantare e va bene. Certo, andare. C'è anche il rischio però che quando qualcuno poi non ha proprio un talento così spiccato per fare qualcosa, la gente a casa gli cabe, ma sono capace anch'io, forse sono più bravo. Sì, però è anche vero che spesso se l'incapacità è associata a un impegno o comunque a una certa capacità di vendersi, quindi di stare nel gruppo piuttosto che di andare contro gli altri, di portare avanti ciò in cui si crede, e spesso quella persona, anche se non è capace di cantare o di ballare o di fare quello che deve fare, riesce però a raccogliere le simpatie di chi sta a casa. Ecco, quindi la forza abbiamo capito che è anche quella. Ma voi autori, come fate a... quali strumenti usate per cercare di carpire la personalità? Cioè capire comunque sia se chi si presenta può essere interessante da quel punto di vista. Ma guarda, si parla. Sostanzialmente si chiacchiera con la persona che arriva e si vede che cosa si trasmette. Cioè lo si vede poi anche nella vita di tutti i giorni, quando uno anche solo a una festa o a cioè ci si relaziona, dici, in qualche modo. Si relaziona, sì, ci si fa raccontare la storia della propria vita, si chiede alla persona soprattutto perché è lì, perché vuole fare quel tipo di show per cui si sta candidando. E la motivazione è sicuramente una delle caratteristiche più importanti, perché se poi uno ha una motivazione scarsa, diciamo che stiamo perdendo tempo entrambi. Ecco, ci sono delle forzature in questo senso, cioè ormai la gente sa che gli autori, la TV cerca personalità, allora cerca di prepararsi anche su quello, da quel punto di vista, e quindi magari si inventa anche delle storie che poi non sono vere. Può succedere. Sì, no, capita. Lì nel libro che citavi prima un po' ne parlavo. Sì. E infatti la capacità sta anche nel non farsi fregare, sta nel fare delle domande per verificare le storie che ti raccontano. E spesso poi è anche un errore, perché spesso ti vengono a dire: io sono come quello lì, io sono come quello là, prendi me perché assomiglio al tale che ha fatto grandi cose in un reality precedente. Però spesso e volentieri è un punto in meno, non è un punto in più, perché se uno si presenta come nuovo Pappalardo, insomma, Pappalardo è già stato visto. Certo, quindi tu dici mai cercare di paragonarsi a qualcun altro, ma invece cercare di essere qualcosa di nuovo, fondamentalmente. Sì, o quantomeno non dirmelo, cioè vediamo certo. Se magari me lo ricordi veramente. Esatto, se lo capite voi bene, se no altrimenti ciao, è passato, sì. E basta. Senti, c'è un, secondo te, un talent show che manca? Visto che adesso stanno facendo il talent show di qualunque cosa, volevo capire se secondo te c'è un talent show che manca. No, è già stato fatto. Sì. Oggi ne parliamo, fra l'altro, niente da fare. Mi spiace, ma anche quello è stato fatto. Perché poi ci sono anche tantissimi canali. Allora, tu dicevi, ecco, bisogna distinguere forse in canali che sono molto attenti allo share, e quindi parliamo ovviamente di della Rai, di Mediaset fondamentalmente, forse anche la 7, anzi senza il forse, e invece canali che possono essere un po' meno attenti allo share, perché sono più interessati a fare cose più interessanti da un certo punto di vista, o mi sbaglio? Sì, o semplicemente più legati a un brand, quindi a un marchio, e quindi non necessariamente corrono dietro alla curva. Ecco. Ecco, quindi da questo punto di vista potrebbero essere più interessanti i contenuti? Ma allora no, secondo me sono solo diversi, è diversa l'impostazione. A livello di interesse dipende uno cosa cerca. Se uno guarda di più al lato show, probabilmente gli interessa di più appunto la trasmissione su una TV generalista. Se guardo di più al lato talent, probabilmente gli interessa di più quella su una TV non generalista, però sempre generalizzando moltissimo, cioè veramente ne sono stati fatti talmente tanti e ovunque che poi puoi trovare di tutto. Senti, secondo te da oggi ci sono altri modi per cercare di emergere, di farsi vedere, o la televisione resta comunque il principe in questo senso? Beh no, internet ormai secondo me è principe molto più della TV. Ecco, quindi è uno strumento da utilizzare. Poi infatti sentiremo anche un ospite che ci racconterà l'esperienza che arriva proprio da lì. Allora Paolo, io a questo punto ti lascio con un nome di programma nuovo che nessuno mi può giudicare. Bisogna solo capire cosa metterci dentro. Da qualcosa siamo partiti, però. Cerchiamo di fare. Bisognerebbe fare un talent show dei programmi televisivi. Siccome ci sono un sacco di format di puntate zero nei cassetti, ce ne sono veramente tantissime. Io direi di fare un talent show dei programmi televisivi, fondamentalmente degli autori. Quindi un talent show di autori, bello, molto. Vedi che è interessante. Quindi poi io... il programma che vince viene fatto. Esatto, potrebbe essere un'idea. L'abbiamo lanciata, se non la fanno fare a noi, guai, perché ormai ci abbiamo i diritti SIAE già da questo momento. Grazie, ciao Paolo. Ciao, buona ciao. Giornata, ciao, grazie. Perché in effetti non è mai stato fatto, forse, non so, forse qualcuno ci ha provato, però davvero esistono nei cassetti di tutte le reti, vi dico la verità, ma centinaia e centinaia e centinaia di puntate zero di programmi che non sono mai stati visti, e qualcuno è particolarmente interessante, i miei per esempio, no sto scherzando, però ce ne sono anche, no? Perché tutti, chi fa questo mestiere ha fatto puntate zero, vale anche per la radio ovviamente. E forse si potrebbe fare un talent show di autori radiotelevisivi facendo ascoltare e vedere le puntate zero e far giudicare poi dal pubblico quale avrebbero voluto vedere in onda. Non è male, la proporrò subito, già lo sto facendo, domani mi ci butto. Aldo Nicolini, alias Zio Potter, ciao, benvenuto, buona domenica. Ciao Stefano, ciao a tutti i telespettatori, anzi i radioascoltatori. Ecco, sì, vedi che ti confondi. Le puntate zero le ho fatte, sì. Ho fatto anche la puntata zero. Sono rimaste sempre, no, non sono rimaste zero, a te ti si è visto, insomma, adesso sì. Cerchiamo di far capire chi sei. Allora, Zio Potter, forse l'avete visto, spero di sì, ma perché adesso è ospite a destra e a manca, è quel tale, quell'illusionista che al quale cade la testa cade, poi sparisce, poi si sposta, e che devo dire in due minuti riesce davvero a creare un effetto particolarmente interessante e molto forte, tant'è che il pubblico di solito risponde particolarmente bene. Sì, certo, ormai sono conosciuto come il mago che perde la testa, neanche come Aldo Nicolini o come Zio Potter. Ecco, forse sei cambiato anche il nome d'arte, ma in realtà la testa la fai perdere a noi spettatori, e questo va benissimo. Certo. Ma cerchiamo di capire cosa c'è dietro, Aldo, nel senso che scelto quello è un numero, è una delle tante idee che tu hai avuto, l'hai proposta, ha funzionato, ma in realtà c'è molto altro. E intanto cominciamo a capire, quando tu hai partecipato per esempio a Italia's Got Talent, che cosa hai fatto praticamente? Sì, no, io ho fatto questo numero, tra l'altro era un numero che io avevo preparato proprio per la televisione, visto che io ho esperienza soprattutto per gli spettacoli live, sono esperto per gli spettacoli dal vivo, e quando c'era questa opportunità di fare questo talent show in televisione ho dovuto studiarmi un numero ad hoc, quindi non faceva parte nel repertorio. Certo, un numero molto visivo, perché in televisione funziona quello ovviamente. Esatto. Ecco. Certamente. Tu ti sei proposto, ti sei fatto vedere, hai fatto il tuo numero, l'hai presentato. Certo, io tra l'altro non pensavo di avere un successo simile, perché tra l'altro questo numero l'avevo già presentato a Cultura Moderna nel 2007 e ho avuto un successo direi notevole, perché ancora adesso giro un po' per tutta l'Italia, mi riconoscono immediatamente come se fossi un volto noto televisivo, quasi un VIP. però... però nel 2007 quando l'avevo fatto la prima volta ero passato molto inosservato. Ecco, quindi poi ci sono anche i momenti, no? Vuol dire forse anche lo share della trasmissione in sé. Ecco Aldo, però alla fine cosa succede? Che da lì si deve partire in qualche modo, per cui dice, non è che posso perdere la testa per tutta la vita, esatto, e fare solo quei due minuti lì. Ma la cosa strana è quello, perché tutti si approcciano a questi talent show pensando che si apra la carriera immediatamente. Esatto. Invece a volte uno si scopre improvvisamente che la vita è molto più dura, perché forse più che lo spessore artistico conta qualcos'altro adesso in televisione. Probabilmente conta il personaggio, conta il trash. Per esempio oggi in televisione trova più spazio un certo Donato Principe, non so se tu sai chi è. Io no, non so chi sia. Ecco, certo, Donato Principe l'abbiamo visto settimana scorsa dalla D'Urso, che è un illusionista che più che fare illusioni fa ridere un po' la gente. Però in televisione piace questo trash, non piace chi magari l'arte se la studia da anni, prova, riprova, cerca di acquisire col tempo l'esperienza di uno spessore artistico. Ecco, quindi tu dici, come Paolo, l'autore, Paolo Mosca, prima diceva, quando c'è meno talento, però la personalità è più forte, perché in qualche modo l'individuo riesce a bucare lo schermo, esatto, così si dice, allora lo si preferisce. E questo rode? Sì. Prova a far tu, nel senso, io, cioè, lo sai, no? Certo che lo so. Ho registrato anche la puntata del programma di Teo Marmucca, Rifenomena, sì. E io mi trovo tra gli ospiti, le varie Guendalina, e mi chiedo cosa ci sia da imparare artisticamente da personaggi del genere. Ecco, però tu dici una cosa interessante, cioè questa. Molto spesso chi ha talento viene poi invitato per fare esattamente quella cosa che ha mostrato. Nel tuo caso perdi la testa, in un altro può essere una canzone piuttosto che un pezzetto di un altro genere d'arte. Però non gli viene data l'opportunità di parlare di sé. Mentre chi non ha talento, siccome non ha niente da mostrare, l'unica cosa che ha è parlare, e quindi ha molto più spazio da quel punto di vista, e in questo modo la gente conosce anche meglio la personalità. Ma non lo so, guarda, io siccome che sono abituato a guardare dal punto di vista dell'artista, quindi quando vedi un artista cerchi sempre di imparare qualcosa. Per esempio lì c'era Forrest, c'erano altri artisti, ovviamente la tua attenzione è puntata per ghermire tutti i segreti. Quando di fronte una Guendalina o personaggi del genere non riesci a imparare niente, non riesci a capire come mai la gente sia interessata, se veramente poi la gente a casa è interessata. Ecco, quello mi interessa, volevo chiedere agli ascoltatori, se volete farcelo sapere via Facebook o con gli sms 349-238-6666, perché questo è interessante. Voi, quando guardate un talent show, che cos'è che vorreste vedere? Il talento, e quindi comunque sia le persone che si esibiscono e che poi raccontano anche di sé, però davvero con un talento, o preferite le personalità, o quantomeno insomma i personaggi tra virgolette che in qualche modo poi la televisione crea? Perché questo è interessante, nel senso che quello che vediamo è davvero quello che vogliamo vedere, oppure quello che ci viene propinato e che passivamente subiamo, punto di domanda. E su internet come stanno andando le cose, Aldo? Ma su internet in che senso tu dici, come visualizzazione? Come visualizzazione, certo, perché il concetto è se la rete poi riesce a portare le persone a teatro. Ma vedremo questo esempio. Io non sono tanto di questo avviso, no? Forse prima l'intervista di prima non era della mia stessa opinione, però di solito l'internauta fa un po' fatica a muoversi, forse si muove di più il pubblico televisivo per andare a teatro. E penso che il canale della televisione sia ancora il canale principale, più forte. Se non ti metti in mostra lì non hai richiamo poi per il pubblico. Ecco, allora diciamo, Aldo Nicolini, alias Zio Potter, alias l'uomo che perde la testa, sa fare, ha molto più talento rispetto a quello che si vede. Quello è un milionesimo, ok? Quindi adesso dovete cercarlo per le altre cose. Diciamolo così, in qualche certo, modo bisogna farlo sapere. Tu sai chi è stata l'unica vera vincitrice di Italia's Got Talent? La vera vincitrice, a parte quella che canta, che non ricordo il nome. È stata Angela Troina, che la vediamo sempre a Uomini e Donne. Ah, va bene, ok. Però ecco, giudicate voi lo spessore artistico. Sì, no, non ho infatti presente chi sia, ma questo vabbè, io non faccio testo perché spesso non guardo quel tipo di testo. Non è snobismo, è tanto... che balla... Ah, ho capito. Oh, ma sì, ma la conosco benissimo. Quando facevo le serate in discoteca al sud, la vedevo sempre, come no, non mi ricordavo il nome assolutamente, perché la chiamavo Lady Disco io, hai capito? Esatto, perché la vedevo però così. Senti, l'unica rivincita, diciamo noi, che ci prendiamo è quando facciamo gli spettacoli live, perché sì, la certo. Gente viene e si ferma solo se è interessante. E infatti la forza è quella, anche la vendita dei dischi è così, ormai i dischi non si vendono più, la forza è cercare di portare la gente ai concerti, non c'è niente da fare. Aldo, ti stupirò, continua ad ascoltarci perché poi avremo un ospite che racconterà una storia molto diversa dalla tua in questo senso, e dove la rete davvero può essere particolarmente forte per portare le persone a teatro, e spero che così sia anche per te. Grazie Aldo, ciao, buona ciao, domenica. Ciao. Aldo Nicolini, a Zio Potter, e quando sono i suoi spettacoli andate a vederlo perché si vede molto di più della testa che cade. Ovviamente ci fermiamo per qualche comunicato per voi e dopo torniamo con una grandissima attrice e cabarettista particolarmente simpatica e una donna molto interessante. Il riposo del guerriero. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Io non sapevo come introdurti, avrei voluto srotolare il tappeto rosso, ma non si vede in radio. Ciao Rossi De Palma. Ciao, buongiorno. Buongiorno, posso parlare italiano tranquillamente, tu lo sai benissimo. Tranquillissimamente. Beata te che sai l'inglese, lo spagnolo è la tua lingua, l'inglese, l'italiano. Allora, per me è un grande piacere parlarti, Rossi, perché ti apprezzo tantissimo come attrice, le ricordate. Grazie. Sicuramente Rossi De Palma è una bravissima attrice, l'avete vista in molti film di Pedro Almodóvar, cito il regista più famoso, tu hai lavorato anche con Jerry Calà, fra l'altro diverse volte. Sì. Cito qualche titolo, Donne sono di una crisi di nervi, Legami, Kika, Il fiore del mio segreto e poi Gli abbracci spezzati, che è l'ultima fatica credo di Pedro. Sì. Intanto una curiosità, tu sei nata un giorno prima di me. Ah, che meraviglia. Ma non lo so. Il 17 di settembre. Io il 17 e tu il 16 dello stesso anno, che non diciamo ovviamente. Guarda. Ecco. Allora, Rossi De Palma è anche tra i giurati di Lady Burlesque, che è un reality, anzi non è un reality, è un talent show che mette insieme ormai 10 concorrenti, sono donne, single, madri di famiglia, impiegate, manager, che esprimono la loro femminilità proprio attraverso il burlesque, che ormai è diventato di moda, se ne continua a parlare, lo si vede molto. Io prima di parlare però del talent show, volevo parlare di te, Rossi De Palma, perché oggi la chiave della puntata è giudici e giudicanti, ovvero chi si trova a giudicare gli altri, però a sua volta poi è stato giudicato nella vita passata, in altri mestieri, ovviamente. Allora, tu quanto ti senti giudicata ogni volta che lavori in un film? No, io non mi sento molto giudicata. Io credo che la peggio persona che puoi giudicarmi siamo noi stessi. Ah, quindi sono la più dura giudice. La più dura. Quindi sei una di quelle che non si piace mai quando si rivede? No, non è questo. Mm. Sempre ha un'esigenza, sempre ha quella cosa di possiamo fare meglio questo. Certo. Sempre una insoddisfazione. Sempre. Ecco, da buona vergine sei particolarmente perfezionista, ecco, quello è un po' il senso. Senti, ci racconti il tuo primo provino con Pedro Almodóvar, come ti sentivi tu? Non hai fatto provino perché io non ho fatto mai di provino. Eccolo lì. E come mai, Rossi? No, perché io, come sono per bene e per male, unica. Sì, certo. Quello che mi vuole deve essere sicuro, non c'è bisogno di provino. Ma è vero che con Pedro è stato molto bravo perché avevamo fatto la legge del desiderio. Sì. Faceva una giornalista di TV. Me lo ricordo molto bene il film. E Pedro ha voluto un po' fotografiare e immortalizzare quello che io era in quel momento. Sì. Allora il look, il make-up, gli abiti che gli portava, tutto era quello proprio dell'epoca mia, era personale. Allora ha detto al macchigliatore, ha detto no, al truccatore, non fare nulla, lascia che lei faccia da sola. Ecco, quindi al costumista non mettere niente, lascia che lui metta il suo abito. Quindi la cosa... Allora per me non era un lavoro di attrice propriamente, perché mi vedeva a me come era in quel momento. Perché... Dopo Donne sull'Orlo, sì, abbiamo fatto un ruolo di composizione di attrice e mi sentiva meglio, perché comunque alla Lei il Desiderio lui stava molto contento, ha detto abbiamo fatto 17 volte tu è stata sempre meravigliosa. Ecco, quindi insomma tu dici la grande fortuna è anche poter essere se stessi ed essere scelti proprio per il fatto di essere se stessi. Rossi, tu quando hai capito di avere una verve particolare, di avere del talento proprio? Perché indubbiamente si parla di questo, insomma tu il talento ce l'hai. Sì, io credo di sì, ma è una cosa che non è carino dirlo così, perché è un po'... diciamolo, te lo dico io. Grazie, caro. Il talento, è vero che il talento è questa cosa di... Io sapevo da più piccolina che non mi vedevano un ufficio di 9 alle 8 della sera. Era questa eccitazione e un rifugio pure l'arte, perché sennò la vita è troppo dura. Credo se non sono artista, perché sono conosciuta come attrice, ma dopo io faccio sulle scultrice, fatto delle abiti, sì. Scrivo la poesia, la musica. In effetti è molto... Quello è un rifugio. Certo, è molto vero che poi alle spalle di un artista, di un'attrice, come nel tuo caso, c'è molto altro, e l'arte ha sempre un punto fondamentale. Ecco, Rossi, volevo chiederti una cosa, scusami. La vita è troppo dura, io sono molto ammiratrice della gente. Delle persone. Diciamo normali. Certo. Quello che hanno una vita... magari più gris. Sì, però tu dici nella... fanno il suo dovere. Sono molto ammiratrice, perché io non... Se non ho questa alterazione dell'arte che mi però sai fa che, la vita meglio. Sai che io credo che molte persone che comunque una vita, diciamo così, non artistica, in realtà poi nella loro vita privata o scrivono o disegnano, insomma fanno, sì. Perché davvero, come dici tu, è un rifugio. Rossi, volevo chiederti una cosa, ma in Spagna i talent show hanno la stessa forza che hanno in Italia? Cioè sono molto seguiti? Sì. Gli artisti, vuoi dire? Sì, talent show, cioè i programmi televisivi dove... Ah, talent show. Sì, sì. Ogni paese, perché io conosco molto la Francia pure, è diverso, perché hai delle volte che è andato benissimo un anno e un anno... Un anno meno. Vabbè. Tu dici che in Italia c'è più attenzione rispetto a questo tipo di programmi. Gli italiani, secondo te, sono... No, io credo che sia due cose. Il talent show... Sì. E come tu diceva prima, che hai rettificato quello di reality. Certo, no? Sono due cose molto diverse. Reality credo che è una epoca, perché non credo che si fa 6, cioè sta, anni, sta finendo. Ha cominciato il reality e la gente ancora non ha fatica di questo. Ma il talent show deve essere, sì, magari non esce delle figure rappresentative che vedi che se dei veri artisti, magari se diviene meno importante. È importante che il talent show ha una ragione e che veramente discopriamo qualcuno di interessante. Ecco, tu dici avrebbe un senso se poi davvero i talenti riuscissero a emergere, a essere visti. Rossi, come giudicherai le donne che si esibiranno in Lady Burlesque? Qual è la tua chiave? Sono molto, ormai sono una giudica carina, devo dirlo. Gentile, sì. Sì, gentile proprio, perché è molto molto divertente e molto carino che queste donne amateur, che non hanno fatto nulla dal mondo artistico, sì? Decidano fare questo del burlesque. E se devi avere molta derisione, non so se si dice questo, certo, come sì, senso della derisione, certo, perché e questo per me è un regalo ormai. Allora, tutte quelle che sono ormai lì, per me meritano molto molto mi rispetti. Ecco, quindi meriterebbero tutte di vincere, secondo te, insomma. No, beh, è una maniera di vincere ormai, sì, perché è andare più lontano di quello che tu sei o di quello che la vita tua normale ti ha ha condenato, allora certo. Tu dici no, adesso vado lì e riscopro un'altra parte di me stessa, e questo è molto coraggioso, e io credo che con questo tutte hanno guadagnato qualcosa. Certo, secondo dopo te imparano, comunque non guadagnano, imparano moltissimo ogni giorno, imparano dell'altri, imparano di lei. Quindi la vittoria veramente riuscire ad aver partecipato e arrivare fino a lì. L'ultima domanda per te, Rossi. Hai mai fatto del burlesque tu? Hai fatto una cosa prossima al burlesque? Sì. Giustamente l'estate scorsa, un spettacolo. E giocava con questa ironia del burlesque. Sì. E mi piaceva molto. Io credo che giustamente il burlesque è molto divertente e non credo che sia una moda, credo che adesso si vede di più, perché sempre in tempi di crisi come il cabaret, cioè come negli anni 40 è la stessa cosa, ecco, torniamo proprio lì, anni 40 la gente ha bisogno di una certa banalità, le sì. banalità profonda. E di sorridere. È una cosa. La banalità profonda. La banalità profonda è un bello ossimoro, grazie Rossi. Adesso non so se sai ossimoro, come non posso tradurlo in spagnolo, magari sai anche la parola in italiano, però questo sì. vale per noi. Ti ringrazio tanto anche per aver accettato di parlare in italiano, insomma, con sì. ecco. E animiamo tutte le donne a fare questa cosa di complicità con se stessa. Sì, ma guarda, rivendicare la sua sensualità oggetto. Guarda che i corsi di burlesque stanno funzionando molto in Italia, tante donne stanno riscoprendo proprio questa voglia di riproporre in un modo divertente e bello la loro femminilità, e quindi siamo tutti contenti, e anche noi decisamente. Rossi De Palma, ti ringrazio davvero tanto, buona domenica. Niente, ecco. E goditi Madrid, visto che lei era lì, anzi è lì in questo momento. Gli aggiornamenti sul traffico e poi continuiamo a parlare di talenti. Il riposo del guerriero. Scrive Gabriella su Facebook: molte volte mi chiedo se veramente le persone guardano e apprezzano certe trasmissioni televisive dove artisti o altro si esibiscono senza avere alcun talento o professionalità. Esempio, io sono una chef e insegnante di cucina, e quando vedo le trasmissioni televisive di cucina non ridisco, osservando che tutti insegnano a cucinare, insegnare una parola grossa, oltretutto danno informazioni spesso sbagliate tecnicamente, per non parlare delle informazioni che danno sull'alimentazione. Orrore! So che adesso faranno un reality culinario e quindi venderò la TV. O ancora, l'ideale sarebbero talento e personalità, ma spesso in TV ci sono personaggi privi di entrambi gli elementi, ma non è proprio così, non sempre almeno. Vediamo di cercare di capire, ci sono degli ambiti dove forse il talento è proprio necessario. Walter Rolfo, ciao, buona domenica. Ciao a tutti, buona domenica. Allora, a San Vincent dal 14 al 17 aprile, e quindi tra due settimane, ci sarà il decimo Magic Convention al Casino di San Vincent, ovvero Masters of Magic, un convegno internazionale dedicato alla magia che vedremo anche in televisione, vero Walter? Sì, saranno dedicate a questo grande evento due prime serate Rai, durante le quali verrà appunto votato il campione italiano di magia. Ecco, a proposito di campione, allora, per quanto riguarda i talenti, beh, in questo campo ce ne vuole per forza, non è che si possa tanto improvvisare. Assolutamente, diciamo che quando si parla di magia, io faccio sempre esempio del calcio, tu puoi iniziare a giocare a calcio con i tuoi amici, quindi andare nei campetti da calcio così come dopo lavoro e avere comunque grazie all'allenamento un buon gioco, però se vuoi sfondare in Coppa Campioni ed essere bravo come Messi devi nascere con un talento speciale che poi devi allenare. Ecco, lo stesso per la magia, insomma. Esatto, ma questi talenti, allora, i talent show per i cantanti ci sono? Poi sì. hanno fatto Italia's Got Talent cercando di mettere insieme tante cose, ma purtroppo sì. dal mio punto di vista l'hanno fatto diventare più una corrida che un vero programma di talenti. E spero che la colpa non sia dei pochi talenti italiani, insomma. No, infatti non è assolutamente no, io sono convinto che ce ne siano molti molti di più, il problema è cosa hanno deciso di fare della trasmissione, che l'hanno trasformata okay. in quello. No, io sono convinto che ce ne siano, il problema è che poi se vengono scelti appunto dei non talenti per fare più ascolto, perché forse è più interessante, pensano che sia più interessante ridere, no? Piuttosto che vedere veramente il talento, allora lì le cose cambiano e cambia anche l'umore della trasmissione. Faccio un esempio: America's Got Talent non è così. In America's Got Talent di solito chi partecipa ha sempre molte cose da dire, no? Ecco. Sì, sì, e, per quanto riguarda la magia, invece, cosa c'è? Cioè, gli illusionisti, i giovani e meno giovani, dov'è che possono mostrarsi? A parte queste trasmissioni come Italia's Got Talent, voi avete fatto una sorta di canale televisivo anche via web? Assolutamente, noi abbiamo come Assassin Magic, che è un'associazione culturale che ha proprio come scopo di portare di nuovo la magia alla ribalta, perché per anni la magia è stata la regina delle arti, poi ultimamente ha avuto un periodo di crisi dove va molto bene nei teatri, ma è stata poco amata, poco stimata in televisione, e noi stiamo proprio cercando di riportare la magia ad essere in qualche modo l'arte principale, perché comunque un bravo mago deve essere un attore, conoscere la musica, un regista, uno scenografo, deve saper recitare. Cioè diciamo che il mago è la somma di 1750.000 diverse capacità e caratteristiche, e noi cerchiamo di premiare proprio l'eccellenza. Quindi tutti i giorni su www.mastersofmagic.it, un contenuto web dove facciamo vedere appunto l'eccellenza della magia italiana e mondiale. Invece per il campionato italiano abbiamo proprio scelto non giovani dilettanti allo sbaraglio, ma i migliori artisti italiani, quindi gli 8 migliori artisti italiani, l'eccellenza assoluta, che si confrontano proprio come nel campionato di calcio di Serie A, quindi le migliori squadre con i migliori campioni, proprio per premiare l'eccellenza della magia in Italia. Senti Walter, è vero che voi inserirete il burlesque quest'anno in qualche modo nello spettacolo? Ma abbiamo qualche idea folle per rendere insomma più accattivante la magia. Diciamo che la magia è un pregio che quando tu la conosci e quando inizi a viverla ti affascina e non la lasci più. È come una bella donna, quando hai la fortuna di iniziare a uscirci poi non la lasci più, solo che devi avvicinarti, e noi cerchiamo magari di trovare degli escamotage perché la gente inizia ad annusare a vivere la vera magia, dopodiché la magia sarà tutto da sé. Ah vabbè, questo è vero, insomma, poi anche la magia di trovare una donna brava, voi l'avete trovata sicuramente, e adesso non voglio dire che se non voglio svelare niente, però se volete andrete a San Vincenzo Cosa 17 di aprile, ma anche in TV. Ci vuoi ricordare le date su Rai 2? Sono ancora in non si sanno, ok, per cui io vi do il sito, il sito è mastersofmagic.it, e poi da lì potrete sicuramente andare a scovare le date per vedere la trasmissione televisiva. Grazie intanto Walter, grazie a voi tantissimo, e insomma vediamoci, ovviamente lo dico proprio col cuore questo perché ci credo molto, il campionato italiano di magia quest'anno porta proprio l'eccellenza della magia in Italia in televisione, che si sfida, quindi anche i grandi professionisti hanno accettato di mostrare il loro talento, di mettersi in gara proprio per dimostrare che la magia italiana è più che mai ricca e speciale. Ma quanto sono felice, ciao Walter, grazie. Ciao, buongiorno. A proposito di magia, allora è successo questo, Rossi De Palma ci ha detto: io sono stata scelta dal Almodovar semplicemente all'inizio, col primo film, perché ero io. Lui ha visto com'ero, come vestivo, la mia personalità. È molto spagnolo Rossi De Palma, davvero, e mi ha presa così com'è. Io, dice lei, non ho mai fatto un provino nella mia vita, e invece i provini si possono fare anche con una lunghissima carriera alle spalle. Enrico Del Buono, ovvero Eric Slogan, ciao, buona domenica. Ciao da Londra. Ciao, esatto. Allora, sono in un bar, quindi forse c'è un po' di rumore di sottofondo. Infatti non ti abbiamo trovato in albergo, ti abbiamo recuperato al telefono. Allora Enrico, cosa sta succedendo? Tu sei un illusionista che da 25 anni ormai gira il mondo. Sì, sì. Mi senti? Esatto. Sì, scusami, no, stavo ordinando nel frattempo. Sì, hai sentito, sì. Era la riprova. Il sì non era rivolto infatti a quello che stavo dicendo io, ma a qualcun altro. Che mi fanno orange juice, e gli ho detto sì. Yes, comunque in Inghilterra yes, no, è bello perché ho risposto in italiano, comunque sia. Allora, dicevo, è 25 anni che tu giri il mondo con le grandi illusioni, con il tuo show, eppure lì sei a Londra per che cosa? Allora, siamo qua perché si è creata l'occasione, effettivamente anche un po' anomala forse, di fare un'audizione, un provino, per una situazione molto, molto importante, laddove in questo caso la riprova di un talento, chiamiamolo talent show, provino che sia, serve secondo me in maniera professionale, iperprofessionale da parte di questa società, che non fidandosi della tecnologia moderna e del DVD che dimostra, o magari a volte ingannando, vabbè, certo, dimostrare, in un montaggio video, dal vivo, certo, in un montaggio video puoi creare qualunque cosa, quindi alla fine tu ti puoi proporre in un modo e poi praticamente non essere quello che sembri, no? Così funziona. Esattamente. quindi può darsi che abbiano avuto esperienze negative, non lo so, bisognerebbe intervistare loro, ma fatto sta che non ingaggiano alcun artista se non l'hanno visto dal vivo, e quindi organizzano di tanto in tanto questi showcase che hanno anche una presenza di pubblico regolare, pubblico normale, proprio per testare la risposta che sul pubblico questo numero, questo artista, questo lavoro suscita. Ecco, e da lì poi procedere con alla scelta. Ecco. Quindi sì. Tu dici, Magado, io sia un grande professionista, girato tutto il mondo, ho fatto centinaia di show e si sa tutto di me, però Magado questo io oggi faccio un provino. Esatto. Ti dà fastidio questa cosa oppure ti fa piacere? No, nella maniera più assoluta, mi fa piacere e non mi trova solo, fra l'altro, perché dipende chiaramente sempre a che livello si fanno le cose. E io so che ci sono addirittura i grandi nomi, le grandi star di Hollywood che ancora oggi si sottopongono a dei provini, ovviamente per dei ruoli, per dei film. Certo. Hollywoodiani, oppure grandi star di musical che fanno il provino perché magari c'è un dubbio fra un'attinenza a un ruolo di un artista piuttosto che di un altro. Ecco. Quindi non ci trovo assolutamente nulla di sbagliato, e anzi direi che tutto questo è all'insegna di una grande professionalità che forse bisogna anche un po' ritrovare ai tempi d'oggi. L'importante è proprio questo, cioè il modo come vengono realizzati questi talent show e questi provini. Certo, se tu dici, ci deve essere serietà, ovviamente. Esatto, ci deve essere la serietà. Se parliamo ovviamente di un provino che dove tutto è combinato prima, dove bisogna far finta di essere lì e vabbè, ci sono anche gare di appalto che sono... Vabbè, ma quella chiaramente è un'altra cosa. Però tu dici, esatto. In realtà è giusto mettersi in discussione continuamente e mostrarsi anche con una bella carriera alle spalle. Bisogna sempre rimettersi in discussione se si vuole essere vivi e andare avanti in una carriera artistica. Perché nel momento in cui, a mio modo di vedere, chiaramente, certo. La mia opinione, non sentenzio nulla, ma nel momento in cui tu credi di essere arrivato è proprio il momento in cui cominci a ridiscendere, a ritornare. E questo nell'arte è sempre vero. Grazie Eris Logan, chiaramente grazie, non dico niente perché insomma tanta M, lo sai, così si dice e deve essere così. Ciao, buona domenica. Ciao, dico comandato. Certo, ciao. Allora continuiamo a parlare ovviamente di questo e darvi anche dei consigli e anche importanti tra poco dopo il GR. Il riposo del guerriero. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua, lei è partita e all'incontrario va, sento fischiare le tue rose, ma qui c'è gente, il baobab, come facevo da bambino, neanche un prete dei desideri, e i miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Davide, sai che tante canzoni andrebbero cantate così, Così togliamo via delle parti, che sennò due maroni. Ciao. Ma sì, infatti. Uniamo ritornelli e strofe tutte assieme. E facciamo... Questo dovrebbe essere Cazzottissima, così si chiama, vero? Il genere che... Esattamente, che il nome ovviamente è un omaggio a Canzonissima. Certo, che diventa però Cazzottero. Cosa succede? Gli Oblivion, intanto benvenuti. Ciao, Davide Calabrese parla per conto di tutti. Quindi grazie a Borciani, Francesca Follini, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli. Esatto. Ecco, tutti insieme formano gli Oblivion, avete una bellissima storia, anche perché va un po' controtendenza alle cose che abbiamo detto oggi, e appunto questa è una delle tante cose che fanno nel loro spettacolo, dove il gruppo canta, uno di voi, chi è tra voi di solito che dà il cazzotto sul tavolo? Sono proprio io. Tu, lo fai tu, ecco, a un tempo predeterminato, e così, dando il pugno sul tavolo, fa saltare, diciamo così, il disco, che invece è dal vivo, ovviamente, come succedeva una volta con le puntine, che abbiamo ormai dimenticato. Invece voi fate proprio questo, anche ritrovare la vecchia musica. Sì, soprattutto, non dimentichiamo le nostre radici, diciamo, e prendiamo la vecchia musica, i nostri vecchi punti di riferimento, e che vecchi non sono più, perché li attualizziamo anche tagliando, spezzettandoli a colpi di cazzotti. Fa molto ridere. Allora, Davide, raccontiamo un po' la vostra storia per chi non la conosce. Allora, voi, vabbè, intanto ognuno di voi ha un percorso musicale straordinario, quindi... Siete persone di talento, questo è indiscutibile. Beh, grazie, sì. Beh, la sì. Musica è la cosa che ci accomuna a tutti e cinque. Poi le nostre formazioni sono diverse, come è facile capire se ci vedete a teatro. Ma è vero che tu facevi il mangiafuoco, scusami? Sì, sì, è verissimo. Ah, okay. Io facevo il mangiafuoco nelle feste medievali e poi facevo il mimo per strada, proprio quelli... Sì, sì, beh, certo. La domenica mattina. E quindi guadagnavi a cappello, in poche parole. Bravissimo, sì, esattamente. No. Soprattutto attorno alle 11, finita la messa delle 10, tutti si sentono molto generosi e riempiono il cappello quando passano per... Indipendentemente da quello che fai. Però se sei bravo guadagni di più, questo è ovvio. Quindi, insomma, ognuno ha il suo percorso, chi più o meno comico, chi artistico comunque in generale. La musica vi accomuna tutti, vi siete messi insieme, avete creato un gruppo. E io scusa se accelero un po', ma per arrivare poi al sodo, ovviamente. Vai. Vi siete presentati a X Factor con un provino che è diventato famosissimo e che purtroppo hanno tolto dalla rete, mannaggia, non ho potuto fare ascoltare, con una Maionchi che vi diceva che cosa? Per me è no. La mia amica ha detto siete bravissimi, ma non, niente, per me no, punto, niente, infatti. Non siamo così pop, non capiamo come mai. Esatto, quindi non funzionerete mai, tra virgolette. E invece poi è successa una cosa. Avete prodotto I Promessi Sposi in 10 minuti. E quindi una serie di canzoni molto famose sono state messe insieme con un testo completamente rivisitato, ovviamente dedicato ai Promessi Sposi, e lì c'è stato il botto. Sì, abbiamo ripreso quella famosa formula del centone, cioè la parodia, appunto, come dicevi tu, delle canzoni famose. Il Quartetto Cetra lo faceva. Sì, anche. Esatto. Una roba che tra l'altro comincia ad essere molto in auge, non si sa come mai in questi ultimi anni, anzi forse nell'ultimo anno il centone è diventato una cosa super trendy, molto pop, lo fanno tutti, benissimo, quindi noi ovviamente prendendo spunto dai nostri maestri eccetera abbiamo messo in onda questi Promessi Sposi in 10 minuti. Ti chiederai perché 10 minuti, perché quella volta su YouTube era il massimo del minutaggio consentito. Esatto, quindi non si poteva fare di più. Tra l'altro stavo, scuso, pensando che se fossi stato io in giuria vi avrei presi sicuramente. Però non c'ero io, per cui amen. Ma forse è andata meglio così, guarda, perché questo vi ha spinto a fare una cosa diversa che ha portato le persone a teatro, perché poi questa è la domanda, no? Il talento, se mostrato, porta le persone a teatro? Punto di domanda. Ma direi di sì. Eravamo andati a X Factor proprio per avere quella vetrina che altrimenti una tournée teatrale non offre. E quindi cercare di avere uno sguardo un po' più ampio. Come e trascinare tutti. Le persone. E invece niente, X Factor è andato male, ma anche un po' per fortuna. Esatto, eravamo terrorizzati di essere presi. E no, la fortuna è stata che appunto alla fine è andato talmente bene il video su YouTube che è riuscito a portare le persone a teatro. Adesso voi siete in tournée con Oblivion Show e credo che stia andando particolarmente bene. Assolutamente sì, ogni anno abbiamo circa un'80 di date. Siamo pronti per il terzo anno di Oblivion Show, quindi un risultato assolutamente sorprendente se pensi che siamo 5 persone, che nessuna di 5 è un nome noto, non abbiamo teatri per fare scambi, perché non so se sapete. Sì, vabbè, ma gli ascoltatori hanno sicuramente capito, si scambia il teatro per la propria presenza, ecco, insomma, invece così è molto più difficile. In questo caso invece i teatri vanno affittati per i giorni della tournée, quindi le spese sono molto alte ed è sempre molto faticoso, quindi incassare e cercare di guadagnare. Esatto. So molto bene. E quindi ce l'avete fatta. Quindi tu sei di quelli che dice internet è un bel mezzo per proporsi se il talento c'è. Non solo, internet è un mezzo veramente democratico, questo posso dirlo dalla mia esperienza. E quindi abbiamo avuto tutti quei click perché le persone apprezzavano quello che facevamo e grazie a quei click sono stati notati poi dagli impresari e dalle persone che contano. Quindi internet diventa veramente una risorsa in questi tempi di crisi fantastica che noi magari quando avevamo 16 anni non avevamo e che ora gli adolescenti possono davvero godere di questo strumento pazzesco. Ecco, quindi insomma, no, siccome qualcuno invece non ci crede, dà ancora alla TV più peso, Invece forse non è detto che sia insomma per forza così, e questo credo che sia la motivazione più interessante a spingere le persone di talento a proporsi anche sulla rete. E ci vuoi ricordare, le date sono tante, però voi avete il sito con scritto tutto ovviamente. Sì, sì, sì, certo, abbiamo un sito con la nostra tournée che continua fino a metà maggio. E ora abbiamo appena finito a Milano e continueremo verso la Liguria, andremo dalle parti della Spezia fra un po', e poi torneremo a Trieste, Bologna, fino al 15 maggio facciamo ancora un bel giro del nord. Ecco, Davide, avete in mente in cantiere ancora un video da proporre su YouTube, per così, con un'idea un po' nuova, diversa, o state magari preparando qualcosa sulla scia dei Promessi Sposi? No, assolutamente sì, in questi giorni stiamo pensando appunto a un nuovo regalo per i fan, ossia un nuovissimo video parodia su YouTube, un video di 6 minuti sarà, sì, con tutta probabilità, stiamo allestendo il set ora. Posso fare una rivelazione in anteprima? Devi farla, okay. Te l'avrei chiesto allora. Io se no. Sarà Avatar, il film, in 6 minuti in parodia musicale. Vi vedremo tutti blu allora. Grazie Davide Calabrese. E ovviamente porta i miei complimentissimi a tutti gli altri. Non mancherò, necessario. Vi ringrazio tanto. Grazie, ciao, grazie a voi, perché ciao. Ci fate ridere, siete proprio bravi. Andateli a vedere anche sulla rete, poi a teatro indubbiamente. Premiate il talento, fatelo. Andate a teatro, davvero. Ho visto Giungi un posto a tavola fra l'altro venerdì, e devo dire che è straordinario. Hanno rimesso in piedi come nel 1974, con le stesse coreografie, quelle di Gino Landi, la stessa scenografia, e poi c'è Guidi, che è il figlio di Gianni Dorelli, che è uguale al padre, un'imitazione del padre, in poche parole, senza imitarlo, c'è la di natura. Un grande spettacolo, secondo me una delle più belle, se non la più bella commedia musicale mai scritta dagli italiani, Garinei e Giovannini ovviamente. E il numero verde per giocare tra poco 800 24 00 24, gli aggiornamenti sul traffico e poi il segreto forse per partecipare ai talent show, ma soprattutto per riconoscere il proprio talento. Il riposo del guerriero. Luca Stanchieri, ciao, buona domenica. Buona domenica, buona domenica. Ti avevamo già sentito con 101 modi per liberarti dagli stronzi e trovare soddisfazione nel lavoro, ma oggi ti sentiamo per 101 modi per allenare l'autostima, perché chi partecipa a un talent show credo che la prima cosa che debba avere è quella, l'autostima. Assolutamente. Questo libro vuole essere un libro in positivo. Purtroppo dell'autostima si parla sempre quando manca. Sì. Mentre se ne parla molto poco quando invece va allenata, va riconosciuta, va coltivata, e l'autostima allenata può diventare talento. Ma è mica facile però allenare l'autostima, eh. Come si fa? Ci sono 101 modi, lo so, ho capito, però se una cosa è scriverli, una cosa è metterli in pratica poi. Ma in qualche modo, a mio avviso, per certi versi dovrebbe essere molto più difficile invece arrivare a disprezzarsi che coltivare l'autostima. Perché poi l'autostima è qualcosa che noi abbiamo connaturato dalla nascita. I bambini, per esempio, hanno una sanissima e generativa autostima. Ah, esistono solo loro, certo. Perché, fra l'altro, loro sono assolutamente convinti di volere una vita felice. Sì. Tant'è che stavo immaginando che un giorno, se dovessimo fare dei corsi, dovremmo fare dei corsi su come evitare di distruggere l'autostima nei bambini. Ecco, ma forse sono le sovrastrutture che alla fine ci aiutano a distruggere l'autostima. L'incontro con l'altro è sempre, da questo punto di vista, ambiguo. È fonte fondamentale dell'autostima, ma può essere anche la distruzione. Una fonte, sì, di autodistruzione. Il problema è come in qualche modo noi poi rielaboriamo le nostre esperienze nella nostra coscienza, se manteniamo un profilo etico anche nei confronti di noi stessi, cioè se ci sentiamo degni di felicità oppure no. Ecco, tu dici essere la propria statua. Io penso che da questo punto di vista l'autostima sia la convinzione di poter ottenere una vita felice attraverso le proprie potenzialità. Però queste potenzialità in qualche modo vanno coltivate, allenate, esercitate, c'è bisogno di maestri, programmi, obiettivi, mete, strumenti, metodi. Ecco, non è esattamente. Non sono cose che si trovano tutti i giorni, ma però a mio avviso noi abbiamo spalle forti, abbiamo dietro di noi una cultura classica che ha fatto dell'autostima e dell'esercizio per l'autostima gran parte della tua produzione teorica e filosofica, penso ai greci, ai latini. Ecco, senti, quando tu dici di sentirsi convinti di riuscire in qualcosa, uno magari può partire anche convinto di riuscire e poi non riesce invece perché non ha raggiunto l'obiettivo che così si era prefisso. Ma tu cosa dici? In questo caso cosa bisogna fare? Ma in questo caso bisogna fare dei bilanci seri. Noi purtroppo non abbiamo ancora una cultura dell'errore, della sconfitta e del fallimento che sia anche una cultura costruttiva, no? Da noi ancora un fallito è quasi un delinquente. Certo, quindi la viviamo malissimo, no? La viviamo malissimo, la viviamo come una profonda devastazione di qualunque nostra possibilità. Al contrario, chiunque ha avuto successo nella vita o ha sviluppato un talento sa che per un successo ci sono 99 fallimenti. Quindi tu dici la cosa importante è rendersi conto di questo? È fare un bilancio, fare un bilancio delle proprie competenze, delle proprie capacità e sapere che lavorare su se stessi in qualche modo è un compito più o meno infinito. Senti, tu fai una differenza tra perfettibili e perfezionisti. Sì. Perché dici perfezionisti alla fine alla furia di cercare sempre il meglio non trovandolo mai perché non esiste automaticamente poi non producono più. Perfezionisti sanno solo arrivare per primi, no? Sì. Se arrivano secondi hanno perso, però in questo modo non riescono mai a fare i conti con se stessi, cioè non riescono anche a vedersi in termini dinamici, si vedono in termini ossessivi. Il perfettibile invece è esattamente colui che ha inglobato dentro di sé l'errore e il fallimento. Pensiamo per esempio a quanti scienziati hanno fatto scoperte assolutamente straordinarie dopo aver fatto migliaia di esperimenti che fallivano, ma ogni esperimento che falliva era comunque una parte fondamentale della conoscenza, della progressione della conoscenza. Se non ci fosse stato questo, beh, l'Oblivion forse sono un caso, no? In questo senso, prima loro hanno partecipato a X Factor, sono stati scartati e da lì è nata l'idea di fare quei Promessi Sposi in 10 minuti. Se non fossero stati scartati non avrebbero mai fatto e forse non avrebbero avuto il successo che hanno avuto. Il problema è esattamente che loro dimostrano che nel momento in cui a me piace una cosa, ne sono appassionato, è in qualche modo parte integrante di me stesso, la minaccia, come dire, la cosa più grave che io posso fare è rinunciare. Sì. Che è altra cosa dal fallire, no? Certo, purtroppo, certo. Per esempio, spesso parliamo con i giovani e vediamo che già a 16 o 17 anni in qualche modo hanno rinunciato. Hanno paura del fallimento e quindi rinunciano, ma il fallimento è esattamente un investire in un'idea e in se stessi e quindi anche la possibilità di sbagliare, di incorrere in errori, ma soprattutto di poi superarli, di andare avanti. Chi rinuncia in qualche modo si autoboicotta in partenza e coltiva, esercita e allena un disprezzo di sé profondo che lo porterà poi a stare male. Ecco, l'ultima cosa, qual è secondo te, se c'è, quella cosa, non so dire neanche io, non so trovare un aggettivo giusto, che può ledere, che lede in assoluto di più rispetto alle altre l'autostima? Ma secondo me non c'è un fattore. Un fattore, ecco. C'è sempre una molteplicità di fattori. Sicuramente ciò che lede di più l'autostima, purtroppo soprattutto in giovane età, è data da, come dire, quei feedback che invece di essere critici rispetto a potenzialità o competenze o performance diventano distruttivi rispetto alla persona. In quei casi noi abbiamo delle catastrofi rinunciatarie. L'altra volta leggevo che ci sono stati 200.000 ragazzi che hanno rinunciato alla scuola pubblica nel 2010, pari al 30% della popolazione studentesca. Questo secondo me è un dato di profonda, profondissima crisi di autostima. Vabbè, interessante questo, andrebbe poi riaffrontato anche la motivazione del perché, perché a volte ci diamo delle motivazioni e poi sono soltanto un modo per nascondere dove sia la realtà delle cose. Luca Stanchieri, grazie, buona domenica ancora. Grazie a te, buona domenica. 101 modi per allenare l'autostima, ecco, io cercavo prima un sostantivo, certo che se andavo a prendere negli aggettivi non avrei mai trovato, comunque sì, ha detto questo, apriamo le porte a Davide Paolini. Il gastronauta. Davide, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Tutti questi programmi di cucina dove si spiega come fare le ricette, i nostri ascoltatori un po' li criticano. Tu che cosa ne pensi? Ha ragione. Perfettamente ragione, hanno rotto le scatole. Vedere tutta sta gente cucinare che non sa neppure cucinare. Infatti questo stanno dicendo. Il talento lì dov'è, scusami? Ma il talento in cucina sta su molte cose, può stare sulle mani, sull'abilità appunto di usare le mani tra i tegami, di capire i tempi di cottura. C'è gente che non usa mai né orologio né altro, né per salare né per cuocere. Quindi quello è anche un talento di capire che con 4-5 ingredienti che magari trovi nel frigorifero di riuscire a fare una ricetta magari che non hai mai fatto, quindi dell'improvvisazione. Il talento è anche quello di discostarsi o da quello che sono le ricette tradizionali, oppure anche quello di farle perfettamente. Io dico sempre che ci sono i compositori e ci sono gli interpreti in cucina. Gli interpreti sono quelli che interpretano perfettamente la tradizione e magari anche ricette del passato, invece i compositori sono quelli che ne inventano di nuovo. Purtroppo di compositori in giro, specialmente in Italia, ce ne sono pochi, ci sono molti interpreti e pochi compositori, e quelli che si vedono secondo me sono così, qualcuno improvvisato che viene messo davanti ai fornelli. Io credo che la televisione oggi in Italia dal punto di vista enogastronomico sia fatta in maniera veramente male, molto male. Non viene utilizzato a fondo quello che è lo schermo televisivo e le possibilità televisive di fare cucina. Allora, se tu fossi un autore TV, che cosa faresti vedere a questo punto? Come sarebbe il tuo programma preferito televisivo relativo all'enogastronomia? Ma io innanzitutto non amo le ricette e non amo abbastanza i cuochi rispetto ai produttori, a quelli che sono i veri interpreti della gastronomia. Mi spiego, quelli che producono materia prima, quelli evidentemente che la lavorano, chi fa latte, chi fa formaggio. Tu quindi vorresti arrivare prima dei fornelli, in poche parole? Io vorrei arrivare molto prima dei fornelli, perché lì sta il tutto. Se tu hai una materia prima che non è buona, che non è all'altezza, è inutile che tu ci metta un fuoriclasse davanti ai fornelli, non riuscirà mai a fare una grande ricetta. Io credo innanzitutto sulla qualità del prodotto, credo sulla superiorità di chi produce rispetto di chi cucina. Questo è un fatto culturale che io ho ben in testa e che ho sempre detto e che sempre dirò, nel senso che secondo me lì sta il vero artista, non è quello ai fornelli. L'artista è il produttore, quello che con un gesto riesce a salare prosciutti, salumi, chi riesce a interpretare un formaggio quando è pronto, quando non è pronto, chi dà delle forme particolari al cibo. Ecco, secondo me quello è l'artista. Il resto devo dire che sì, ci sono dei fuoriclasse, mi piacciono, ci sono dei cuochi bravissimi, però io preferisco mangiare la materia prima assoluta, anche perché se tu ci pensi bene puoi mangiare perfettamente senza passare ai fornelli. Quindi secondo me questo è un po' la prova provata. E abbiamo anche una trasmissione nuova, cioè la ricetta al contrario, si parte dalla ricetta e poi da lì si torna indietro fino a vedere la composizione di quella ricetta da chi arriva, e quindi il produttore dei vari ingredienti. Grazie Davide, noi ci sentiamo ovviamente al Vinitaly la settimana prossima. Sì, la settimana prossima sarò al Vinitaly sabato e farò una trasmissione sulla cultura del vino. Ovviamente, perché di quello parleremo, e noi invece ci sposteremo sul lusso e non soltanto, quindi che ovviamente ha a che fare anche con l'enogastronomia, quindi come sempre ci sentiremo. Grazie Davide Paolini. Una battuta sul lusso? Il lusso non è quello che costa caro, il lusso è la rarità. Quindi la rarità di certi prodotti e il vero lusso non sono quelli che costano molto. E su questo punterà proprio la puntata del riposo del guerriero, esattamente così. Grazie Davide, sono d'accordo con te, ciao. E infatti l'argomento sarà proprio questo, il lusso non legato a quanto vale, quanto costa qualcosa, ma a quanto vale da un altro punto di vista, ovviamente. E comunque questo è l'argomento della settimana prossima, non questo. Noi siamo pronti a giocare tra pochissimo, 1000 euro per voi da spendere su libreriarizzoli.it, il numero verde 800 24 00 24. Il riposo del guerriero. Mi fa sorridere un messaggio di Elena che scrive: il talento dovrebbe comportare anche creatività. I promessi sposi in 10 minuti, una brutta copia degna di questi tempi. Mai sentito parlare del quartetto Cetra di Antonello Falqui? Giocate tutti a difendere e a saltare a esaltare la mediocrità. Allora io volevo così, ho letto questo messaggio di proposito semplicemente perché dico, primo, che Elena sicuramente non ha visto i promessi sposi in 10 minuti, quindi non ha ascoltato il testo particolarmente intelligente degli Oblivion. Secondo, gli Oblivion citano spessissimo il quartetto Cetra, anzi sono partiti proprio da lì e fanno molto in teatro, replicano molte cose che erano proprio del quartetto Cetra, semplicemente riproposto in chiave 2011, anche perché del quartetto Cetra è rimasta solo lei e gli altri purtroppo non ci sono più, e quindi è giusto anche rivedere, ma senza assolutamente cancellare il passato. Anzi, loro per primi, ribadisco, prendono spunto proprio dal quartetto Cetra, del quale hanno grandissima stima Falqui e tutti gli altri, per cui in realtà proprio di mediocrità non parlerei. Io andrei a vedere che cosa sanno fare le persone prima di giudicarle mediocri. Molto spesso sappiamo, appunto era la puntata di oggi, sappiamo giudicare gli altri senza sapere nemmeno cosa sanno fare davvero. Un mistero in 24 minuti. Pronti a giocare invece 1000 euro per voi da spendere su libreriarizzoli.it, e qui sì che vi voglio creativi perché dovete arrivare alla soluzione. Può essere un personaggio conosciuto ovviamente, una notizia oppure qualcosa insomma che ci appartiene e che tutti conoscono, e dovete arrivare alla soluzione attraverso gli indizi musicali che sto per proporvi. Più indizi ascolterete più il premio si abbasserà, però partiamo da 1000 euro. Il numero verde per giocare 800 24 00 24, e questo è il primo indizio. E rinascerò senza complesse frustrazioni, amico mio, ascolterò le sinfonie delle stagioni con un mio ruolo definito, così felice d'essere nato fra cielo e terra. Agostino, la provincia di Gallarate, sì. Buona domenica, ciao. Ciao Stefano. Tu rassenti la primavera? Direi di sì, finalmente. No, sì, era il sentirlo, non era tanto la temperatura fuori. No, cosa... oggi è veramente caldo, si fa benissimo. Una cosa interna, la senti internamente? Ah, internamente sì, insomma, abbastanza direi. Hai voglia di buttare tutto all'aria, di fare qualcosa di nuovo, di rinascere? Sì, sì. Magari Cervo primavera, no, nel senso che lui Cervo diceva cosa. No, beh, qui c'è, vabbè. Io rinascerò, sì, esatto. No, però non so perché gli italiani questa parola qui la intendono sempre male. Non era quello che avrebbe voluto dire Cocciante nel testo. Sì. Comunque, sì, secondo me sì. Insomma, eterno migratore, frustrazione. Non lo so, magari sì, eh. Sono io che cerco di portarvi fuori. Non voglio darvi 1000 euro, voglio tenermele io. Perché è chiaro che tutto quello che non vincete io ovviamente lo tengo io, lo sapete che sì? È così, vero? Sì, ma figurati, ma neanche. Allora, Agostino, cosa vogliamo fare? Ma io mi butto subito. Eccoli, vai. Sì. Allora, avevo due soluzioni, però opterei per Jet Lo, l'attore britannico. Sì. L'attore britannico che rinasce perché si rimette con l'Alex, no? Con l'ex fidanzata. Sai che non posso, perché dopo se dico troppo, dopo capito? Gli ascoltatori, guarda che sono machiavellici, voi siete machiavellici. Per cui io Va bene, Jude Law, ok, ci siamo, bravo, cioè bravo non si sa, scopriremo se la risposta sarà quella giusta tra al 24esimo minuto, ormai una ventina, quindi sarebbero 1.000 euro per te. Grazie Agostino. Grazie, ciao. E la primavera, ciao Paolo da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Allora Paolo, cosa vogliamo fare? Provo anch'io a dare la risposta. Tu hai un talento? Hai un talento? Studio ingegneria. Vabbè, per adesso studio ingegneria, va bene. Allora poi vedremo. Studio ingegneria non è male la risposta. Allora, Paolo, che risposta vuoi dare? Secondo la frase il cervo rinasce a primavera. Sì. Ho pensato alla notizia che lui ha fallito il negoziato sulle carni clonate. Sì. E quindi le possiamo trovare sui tavoli senza etichettatura, senza sapere se saranno clonate. E questo sarà un vero problema. Grazie Paolo. Grazie a lei. Buona domenica. Claudio da Rimini. Là, ciao, lì la primavera lì la sentite tutto l'anno. Andiamo, siamo andati sul mare, in spiaggia stamattina. Sì, sì, ma sai, lì. No, fa veramente caldissimo, ma ve la state già godendo, no, lì a Rimini, com'è? Si sta bene, va bene, bene. Il mare è calmissimo, lo specchio, bene, bene. Sta bene. Allora, Claudio, che cosa vuoi fare? Un altro indizio? Scendiamo a 500 euro o manteniamo i 1.000? Ma direi che io sì, sarebbe meglio andare a 500 perché francamente non saprei da dove cominciare. E allora sentiamo il secondo indizio. You promised me everything. You promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh Romeo, yeah. You know I used to have a scene with him, Juliet. When we made love, you used to cry. You said I love you like stars above. I love you till I die. Volevo, insomma, così farvela un po' sentire questa straordinaria canzone di Dire Straits, Romeo and Juliet. Poi adesso so che farete tutti gli abbinamenti, perché Dire Straits sono inglesi, Jude Law è londinese, Romeo e Giulietta, Jude Law spesso ritorna con la sua ex fidanzata, c'è cioè quella nuova che però è una ex, lui spesso fa queste cose, chi lo sa, ma Jude Law l'hanno già detto, per cui cosa vogliamo fare? Vuoi pensare? Ti lascio il tempo della viabilità per pensare, Claudio? Ma mi sembra molto difficile, guardi, sono quasi sul punto di rinunciare. Non so dove cominciare. Allora, guarda, io ti lascio il tempo della viabilità. Tu pensi a una risposta. Avevamo Cervo Primavera, Riccardo Cocciante, Romeo e Juliet. Devo tradurtelo? Giulietta e Romeo. No, ecco, va bene. Dai, Dire Straits. Pensaci e torniamo. Strade in diretta. Sulla A14 Adriatica si formano code per un incidente tra Bologna San Lazzaro e Imola in direzione di Ancona. Ci spostiamo sulla A6 Torino-Savona, automobilisti incolonnati per un cantiere fra Millesimo e il bivio per la A10 in direzione Savona. Code per lavori anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra gli svincoli di Montopoli-Valdarne e Ponte d'Era Est verso Livorno. Traffico poi intenso e rallentato sulla 11 Firenze-Mare verso Pisa, tra Alto Pascio e Lucca Est. È tutto, il prossimo appuntamento è tra mezz'ora. Un mistero in 24 minuti. Allora, Claudio, ti è venuta in mente una risposta? Ma senti, mi sa che si tratta di gossip. Ora, se stando ai titoli delle canzoni, c'è la primavera e Romeo e Giulietta. È gossip, però ce n'è troppo il giro, no? Ma a me il gossip mica piace tanto, sai, non mi piace per niente a me il gossip di solito. Ah no, neanche me, dico appunto, ma evidentemente non sarà gossip allora. Che ti devo dire? Credo, non lo so. Non saprei, guarda, onestamente mi arrendo. Cedo la parola. Grazie Claudio, ciao. Buona giornata, grazie davvero. Nancy, da Milano. Eccoci, pronto. Nancy, sai che è un nome raro, Nancy? Sì. Io mi ricordo Nancy Drew, che era una delle protagoniste dei Gialli Mondadori per ragazzi. No, invece è Nancy di De André. cioè viene da lì il mio nome. Vedi? Vedi che però arriva, ecco, da un personaggio raccontato, sì. No? Eccoli. Allora Nancy, cosa vogliamo fare? Due indizi li abbiamo scoperti che... Sì, infatti che secondo me ha messo in crisi. Ne aggiungiamo un terzo? Non so, vuoi scendere a 300 euro, avere magari un'idea in più? Non lo so, Quasi quasi a questo punto sì, dai. Allora sentiamo il terzo indizio, 300 euro. È una di fianco che comincia così tutta caldina, poi urla come una pazza, poi torna così, non si fa irretire. Hai riconosciuto la voce? Perché non era facilissimo. Ma non era Mina, no? È Mina, certo, è Mina dei primissimi Mina tempi, esatto. E il titolo della canzone è Una casa in cima al mondo. Sì, ma... Allora, mi spiace tornare sul gossip a questo punto, visto che la mia prima scelta era Gheddafi, ma la scarto perché con le ultime due canzoni ci siamo proprio spostati. Anche noi facciamo la stessa cosa. Ok, e a questo punto dico la Clerici che è tornata perdonando col suo uomo. Lo so che puro gossip non sarà, ma giusto per dire qualcosa. È una bella risposta anche questa, assolutamente. Nel senso che, vabbè, Cervo a primavera, è vero che noi italiani lo interpretiamo male, però ci sta il tradimento. E poi Romeo e Juliet, l'amore che è tornato. Nancy, a te mai è successo di tornare con un tuo ex? Mai. E come l'hai detto proprio, mai. Piuttosto sul mio corpo, però sul mio cadavere, no? In quel senso, però mai. Brava Nancy, ciao, grazie, buona domenica, ciao. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Sergio da Verona ce l'ha lì a portata di mano la soluzione. Sergio? Sì? Ciao, buongiorno. Sì, pronto, ciao. Ma c'era un cane che abbaiava? Sì, tanti cani. Ah, tanti? Sono in piazza. Ah, ok, una persona avesse un canile. Perché prima ho chiamato dalla macchina, poi dopo... Lo so, hai aspettato un po'. Allora, Sergio, cosa vogliamo fare? Tre indizi li abbiamo scoperti, siamo a 300 euro. Ok, allora io penso il principe inglese lì e la sua... Si sposeranno Kate e William, va che bene. Si erano lasciati, poi dopo adesso vogliono andare a vivere in una casa... Ah, gli altri... Scusi? No, okay, l'altro, cioè quale principe? Perché i due si sposano, non aspetta, penso... Aspetta, qual è il più grande? Dei due fratelli, non lo so qual è. Andrea. Ecco, la sua moglie, futura moglie, come si chiama? Non so come si chiama, comunque mi è venuta in mente questa cosa, che si erano lasciati. Romeo e Giulietta, va bene, sono inglesi. No, certo, no, ci sta. Verona, ci... Però, no, beh, sì, ho capito, ma fa niente. Poi voglio dire, ci sta. Comunque, è una storia al di là di tutto. Poi, sappiamo bene da dove arriva. Al mondo mi sembra che volevano abitare una casa molto più semplice. Ah, va bene. Grazie Sergio. Guarda, io ti dico subito, non è la risposta giusta, ma tanto te lo devo dire, sai perché? Si è capito talmente bene che non... ho appreso un sacco di cose dalla tua risposta che io non conoscevo, che si era capito che non poteva essere la risposta giusta. Grazie Sergio però, davvero. Saluta mia moglie, Rossella, un bacio a te. Ciao. Grazie, ciao. Che bello, grazie Rossella. Bene, Dora da Milano, buongiorno. Buongiorno, sono io. No, Dora, ero talmente basito, si è capito talmente, non potevo far finta di nulla, ho dovuto svelare che... Ma tu, sta storia la sai, ma cos'è successo? No, non seguo questi gossip. E neanche tu, brava Dora. Seguo dei gossiponi un po' più corposi, dici tu, eccoli sì, lì. Sì, sì. Allora, Dora, cosa vogliamo fare? Abbiamo altri indizi per te oppure vuoi dare una risposta? No, voglio dare la risposta, voglio lasciare il Montepremi intatto, quasi corposo. Intatto, insomma un po' corposino. Vai, Dora. Ecco, io ho pensato che due cose dovrò scegliere. Il fenomeno del trasformismo, e cioè del passaggio da uno schieramento politico all'altro, oppure dei nomi che attengono però a questo fenomeno. e il primo che mi è venuto in mente è il mitico Scilipoti. Grazie, grazie Dora, ciao. Grazie. Buona domenica, ciao. Roberto da Modena, buongiorno. Buongiorno. Ciao Roberto, tre indizi, 300 euro. Io cosa vuoi fare? Anche tu? Sì, penso di aver capito. Addirittura? Dico, sì. Lo Spider-Man francese che ha scalato il palazzo più alto del mondo. Grazie Roberto, ciao. Grazie, ciao. Non posso dire niente. Ilaria da Verona, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Ilaria, siamo a 300 euro. Cosa vuoi fare? Rispondo anch'io perché guarda, non ho idea, ci sono tante... Voi non volete chiedere gli indizi, questo è il problema, guarda, io sono convinto di questo. Quando siete indecisi è meglio chiedere un indizio, perché sì, magari... Però... Si abbassa ancora il Montepremi. Ho capito, però magari c'è quella parola, quella cosa che fa accendere una lampadina, soprattutto quando la lampadina è spenta. Ma sì, dai, ascolta il tuo consiglio. Eccolo lì. Quarto indizio. Entro in chiesa là. Io cerco di pregare, ma il mio pensiero invece va, pensiero va, ritorna sempre là, torna sempre là, al sole caldo che vorrei, caldo sole che qui non verrà mai, che qui non verrà mai, ti sogno California, California, e un giorno io verrò. Ilaria, sì. L'hai riconosciuti di Sognando la California? Sì. Sì. Allora? Di mezzo c'è una coppia di sicuro. Giusto? Sì, c'è una coppia. Io prima sono andata al supermercato e ho visto sui vari giornali di gossip che anche Corona e Belen vogliono formare una famiglia di nuovo insieme. Non mi interessano queste cose, ma il colpo d'occhio mi è andato e dico, vabbè, magari era questa, insomma. Grazie Ilaria, ma questa non è la risposta giusta, mi dispiace. Niente. Ciao, grazie Ilaria. Ciao. E allora la risposta ve la do io. Siamo in California, Los Angeles. Due studenti hanno fatto sesso sul tetto del college. La cosa buffa è che dall'altra parte sono stati fotografati e tutte le foto sono finite su internet, con espulsione ovviamente degli due studenti. Le foto sono reperibili su internet e vi garantisco che sono particolarmente interessanti. Cioè, nel senso che lo facevano davvero, altro che, ecco perché la casa è in cima al mondo, siamo all'ultimo piano del college, c'è la primavera, perché in primavera ci sono così degli impulsi, no, irrefrenabili, e uno deve fare quello che deve fare, e poi una casa in cima al mondo, per quello Romeo e Juliet, perché sono i nuovi Romeo e Giulietta, Sognando la California, perché è successo a Los Angeles. Grazie a tutti, ci sentiamo domenica prossima in diretta dal Vin Italy a Verona, vi aspetto, venite. Grazie a Giorgio De Luca, redazione, l'assistenza di Claudia Carusi, Paolo Corleoni in regia, e ovviamente grazie a voi.